buongiorno a Paolo Freso, benvenuto su Radio Città Fugico. Buongiorno a tutti. Hai detto sono 60 anni, sono capitati adesso e ce li prendiamo. Beh, già entusiasmo questa affermazione. Ma sì, ce li prendiamo perché ovviamente è un anniversario importante, almeno per me lo è. E ho detto scherzosamente più volte in questi giorni che al tempo del Covid le cose valgono il doppio, perché il tempo che stiamo vivendo è dilatato e quindi sono 120 e quindi mi sento incredibilmente giovane, perché a 120 anni mi sento giovane. In realtà, a parte gli scherzi, è semplicemente un momento di transito per il quale però ho molto lavorato, proprio per pensare un progetto che se 10 anni fa era stato sviluppato in Sardegna, totalmente in Sardegna, con una tournée incredibile, con 50 concerti in 50 giorni consecutivi e con 50 gruppi diversi, ho pensato che 60 anni dovevano essere festeggiati e dedicati alla città che ormai mi ospita da tantissimo tempo, e quindi abbiamo pensato ad un avvenimento importante da fare alla Biblioteca dell'Archiginnasio, che sarà trasmesso dopodomani sia in prima serata su Rai 5 che sulla rete a partire dalle ore 19. Tra l'altro il concetto della rete sarà anche leggermente diverso rispetto a quello del televisivo, e poi con un triplo disco che è stato, insomma, un impegno importante, una fatica, soprattutto costruirlo durante il tempo del Covid, 2 dischi originali registrati nella seconda parte del 2020 e poi un vecchio progetto di circa 20 anni fa. Insomma, non è stato semplice, però diciamo che tutto questo ci ha spinto anche in questo tempo così tragico poi per il mondo anche dei lavoratori dello spettacolo, con i teatri chiusi, una socialità difficile da vivere soprattutto per la musica. Non siamo stati con le mani in mano, la noia non ci appartiene, e anzi questa cosa ci ha spronato a fare ancora di meglio. Intanto non li dimostri affatto 120 anni, ma neanche 60, io direi. Oltre a Radio Città Fugico, a farti gli auguri, chi ci sarà presente con te? Ma dunque, nel progetto dell'Archiginnasio ci sarà Alessandro Bergonzoni, ci sarà il quartetto d'archi Alborada, ci sarà Daniele di Bonaventura, ci sarà Marco Bardoscia e Dino Rubino. Abbiamo pensato ad un progetto che dovesse essere leggero e anche rispettoso di quel luogo straordinario che è la Biblioteca dell'Archiginnasio, anche perché l'abbiamo utilizzata nella sua chiarezza, cioè abbiamo usato la sala dello Stabat Mater, abbiamo usato il teatro anatomico, la sala di 18, la sala di lettura e poi anche altri spazi. Volevamo sostanzialmente raccontare questo luogo di storia, così pieno di storia, intriso di conoscenza, di curiosità, di sapere. Era un po' la metafora di questi miei 60 anni, delle mie passioni. Mi ritengo una persona curiosa, comunque aperta, come dovrebbe essere anche una biblioteca che contiene all'interno i saperi del mondo indipendentemente da tutto. E poi c'è Alessandro, che è difficile da descrivere, perché Alessandro non è Alessandro Bergonzoni, non è lì né in veste di presentatore né in veste di attore, è in veste di se stesso, veramente molto bello. E poi invece il lavoro discografico, sono 3 dischi in un cofanetto particolare di 32 pagine, dove all'interno sono contenute le foto di un grande fotografo italiano che è Roberto Cifarelli, e un breve testo sia in italiano che in sardo che in inglese, con anche una scelta di 60 parole, che sono le parole per me importanti della mia vita. Sono scritte in linguaggio LIT, laddove alcune parti della parola sono sostituite da dei segni grafici, diciamo così, quelli che ormai si usano nella rete, e i 3 dischi sono un vecchio lavoro dal titolo Heartland di 20 anni fa, con dei links di Eric Wiesel e soprattutto con una sezione ritmica straordinaria che era quella di Palle Daniels e Ion Christens, il grande batterista, che poi era la sezione ritmica del quartetto di Jarrett, e poi Ion se n'è andato 3 anni fa e quindi tanto più ho voluto dedicargli questo disco, e poi 2 produzioni nuove, originali, che sono state pensate nel 2020 e registrate tra novembre e dicembre. Il primo disco in trio con Daniele di Bonaventura e Jacques Morellenbaum, dal titolo The Sun on the Sea. Tra l'altro io e Daniele abbiamo registrato in Italia ad Udine, e Jacques ha registrato dopo in Brasile a casa sua, in un momento veramente molto difficile per il Brasile, nel mese di dicembre registrava a casa sua dopo la mezzanotte, e poi ci ha mandato le piste, poi le abbiamo montate assieme. È un lavoro dove ci sono composizioni originali, ma anche brani della letteratura ovviamente brasiliana, di Jobim, visto che Jacques insomma, è uno dei grandi esponenti di questa vague della musica brasiliana, c'è anche De André, e ci sono tante cose diverse. E poi il terzo disco invece è il disco dedicato a David Bowie, è un tributo a Bowie con la voce di Petra Magoni e con Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer, il batterista di Elio. E questo disco, proprio anche per la presenza di Christian, dà lavoro è un lavoro un po' a cavallo tra il jazz e anche il pop, molto raffinato. Abbiamo scelto tutta una serie di brani di Bowie, purtroppo non tutti riusciamo a metterli nel disco, ma poi pubblicheremo probabilmente in primavera un secondo disco più ricco, dove saranno presenti anche delle altre cose, e nonostante questo rimarranno fuori due pezzi, che sono Warszawa, che è un pezzo strumentale, e poi Cat People, perché proprio non riuscivamo a metterli da nessuna parte, saranno dedicati principalmente alla rete. E come nelle migliori produzioni del pop, abbiamo poi messo il lavoro nelle mani di un ingegnere del suono, che è Andrea Pellegrini, che insieme a una parte del team di Elio lo ha poi mixato alla sua maniera. Insomma, quindi un lavoro, un'esperienza anche diversa per quanto mi riguarda, per omaggiare David Bowie, insomma, che è uno dei più grandi artisti della nostra storia recente.